cosa fai per cena, che cosa fai finora, cosa ne dici se fermiamo il tempo e ci passiamo sopra, dove non c'è la sera e non è mai mattina e non si dice meglio tardi o torni tutto come prima. Ma tu, amore, sogna sempre di una stella, ma tu, amore, grida se c'è silenzio intorno a te. Succederà qualcosa, succederà che il tempo si fermerà, si scioglierà le scarpe, ci darà la mano e non potrai vedere il cielo che si muove, i panifici, quel profumo caldo, il giorno tuo che muore. Ma tu, amore, sogna sempre di luna, stella, ma tu, amore, grida se c'è silenzio intorno a te, se nel cuore tuo la vita c'è. Dovevamo andare.